nostra associazione non ha, diciamo, fatto ancora una valutazione ufficiale, perché appunto sono bozze, sono indiscrezioni, non abbiamo un testo finale. Diciamo, sarebbe importante capire se questi testi che sono circolati sono effettivi. Quindi dico qualcosa in termini appunto ancora di carattere molto generale, appunto in attesa di un testo appunto consolidato ufficiale. Da un lato va chiarita una cosa: questa non è una riforma, no? Chiaramente del testo unico, ma è, diciamo, più semplicemente una riforma solo delle materie sulle quali si era accanito i due decreti sicurezza 1 e 2. E quindi questo è importante dirlo, perché siamo di fronte a una normativa sull'immigrazione che, anche dovesse passare questo testo, rimarrà molto molto problematica, molto farraginosa, molto, diciamo, di per sé criticabile. Cioè, i grandi problemi non verranno sicuramente affrontati. Detto questo, sicuramente però almeno dobbiamo dire che questa, il testo, appunto la bozza che sta circolando, una bozza che non è, che in un certo senso mette mano realmente al testo e anche in maniera significativa, al testo dei decreti, intendo dire, sì, Salvini, e anche in maniera significativa, secondo una logica sostanzialmente che può essere così sintetizzata: un po' un ritorno a prima, ecco, perché sia per quello che riguarda il sistema della protezione umanitaria, sia per quanto riguarda il sistema dell'accoglienza, i due punti forse più grossi di riforma, abbiamo un ritorno alla situazione precedente. E nel caso della protezione umanitaria devo segnalare con una certa soddisfazione che c'è anche una ulteriore valorizzazione degli aspetti legati all'integrazione sociale degli stranieri, che erano stati ampiamente valorizzati dalla giurisprudenza, ma che qui invece vengono un po' consolidati proprio da un testo normativo. C'è anche tutto il capitolo, diciamo, della cittadinanza che viene accennato, e in particolare anche l'eventualità di arrivare finalmente allo Ius Culture. Eh sì, però appunto, come le dicevo prima, si torna a tempi più ragionevoli, ma sempre molto molto lunghi, spropositati nella media europea, di esame delle domande, ma non viene messo mano ad aspetti di merito, di contenuto come le sculture o altri, proprio perché questa forma è appunto abrogativa, sostanzialmente neanche interamente abrogativa, ma diciamo incide in maniera significativa su quei decreti, ma non sul quadro generale. L'ASGI da tempo sosteneva anche la possibilità della conversione dei permessi appunto in permessi di lavoro, che segnavano un po', anche fotografavano un po' anche la situazione in Italia, cioè il fatto che magari si procedesse attraverso il canale della richiesta di protezione internazionale perché non c'erano altri strumenti per arrivare nel nostro paese, più in generale in Europa. Come un po' come prima, cioè da un lato è una norma è fondamentale e importantissima, questo darà modo, diciamo, sicuramente a molti stranieri di liberare le proprie energie e quindi a convertire questi, per i permessi di soggiorno, in lavoro. Però attenzione, parte qualcuno sicuramente, no? Il canale dell'asilo potrebbe essere un po' alleggerito, ma non negli ingressi, come diceva prima, perché non abbiamo affatto una riforma degli ingressi e dei soggiorni, non abbiamo un'apertura di quote, non abbiamo la creazione, diciamo, di meccanismi per questo tipo. Questo riguarda una riforma del testo unico sull'immigrazione, cioè per arrivare in Italia le persone continueranno o a presentare domanda d'asilo oppure a venire irregolarmente e poi cercare di inserirsi e aspettare la prossima sanatoria. Cioè le distorsioni profonde le abbiamo tutte lì, semplicemente mettiamo la marcia indietro e ripartiamo da dove eravamo arrivati, da prima del signor Salvini. Quindi insomma servirebbe una riforma più complessiva? Servirebbe una riforma più complessiva sia dell'asilo, che ancora appunto non abbiamo, è anche bella, insomma, sicuramente robusta, e soprattutto servirebbe una riforma del sistema degli ingressi e dei soggiorni, appunto, quindi per tutto quello che riguarda gli stranieri che non hanno un motivo di protezione, che non sono qui per motivi di protezione, e della cittadinanza parallelamente. Ed è questo il punto più debole in assoluto della situazione italiana, ancor più del diritto d'asilo, che è già comunque stato, ahimè, vessato in molti modi, ma appunto sull'immigrazione è veramente, veramente impresentabile, e oggi appunto non consente, come si diceva, di venire regolarmente pressoché a nessuna condizione, se non appunto i ricongiungenti familiari e poco altro, e destabilizza i soggiorni, perché invece di puntare a stabilizzare per l'appunto la permanenza dello straniero, in realtà le persone cadono molto facilmente nella irregolarità per motivi legati alla instabilità chiaramente lavorativa principalmente. La norma non ne tiene conto minimamente, cioè la norma è la fabbrica dell'irregolarità, questa è una gigantesca fabbrica di irregolarità e questa macchina va completamente spenta e va sostituita con un meccanismo completamente diverso, se no appunto i problemi di fondo, anche se passerà, come si sembra proprio, questa positiva, insomma, riforma, piccola riforma, ma i problemi di fondo rimangono quelli di prima.